ballando, pensando a una vita forse non basterà. Si viene, si va, allora tenendo la vita per la coda, non è caso che Dio non sia in sede. Si viene, si va, tenendoci stretti, tenendoci dritti, che così si fa. Si viene, si va, per sempre fra gusto e dolore, più o meno, venendo nel mondo, più o meno. Vai, vieni e vai, come vuoi, nasci solo e solo andrai, e mezzo che hai, quel gran bel traffico, il traffico che vuoi. Si viene, si va, cercandoci un senso, che poi alla fine il senso è tutto qua. Si viene, si va, di umana commedia, che c'è chi la spiega e c'è chi viveva. Si viene, si va, comunque fischiando, cantando il motivo.